Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Vincenzo Onorato, Vela e Mare, maestri di vita. A cura di Anna Marino. Mare la vela insegna soprattutto a relazionarsi con gli altri, quando si è su una, sia su una grande nave o sia su una piccola barca a vela, bisogna avere fiducia del proprio equipaggio. Anche se si è in un ruolo da mozzo o da comandante, bisogna fare in modo che la relazione con gli altri sia una relazione di fiducia. E questa è una grossa lezione. Nato a Napoli nel 1957, Vincenzo Onorato è soprattutto un uomo di mare. Velista, armatore di quarta generazione, laureato in economia marittima, nel 1982 ha fondato la Moby Lines, società leader nei trasporti marittimi di cui è presidente. Nel 1993 ha fondato e presiede il Mascalzone Latino Sailing Team, team di velisti italiani. La sua preparazione, la sua passione e il suo spirito marinaresco gli hanno permesso di affrontare con determinazione, ogni anno, nuove sfide, ottenendo numerosi successi che hanno portato Mascalzone Latino a diventare uno dei top team della vela mondiale. Già socio del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e ora socio del Circolo Nautico di Roma, ha condotto l'Italia intera in due sfide di Coppa America. Andando a ritroso, però, come spiega Vincenzo Onorato, il cognome di famiglia ha un suono antico. Moby è una storia relativamente recente, perché la storia della famiglia Onorato nasce alla fine del 1800 con il primo, io sono la quarta generazione, con il bisnonno che di fatto comprò una piccola nave, un veliero, e iniziò questa attività. Poi da lì l'ha tramandata al figlio e dal figlio a mio padre e poi da mio padre la cultura e la storia di questa famiglia è andata avanti ed è nata e sorta nell'82 la Moby. Per arrivare alla realtà consolidata di oggi, bisogna partire dalla compagnia fondata da Achille Onorato, che partendo dalla Campania cominciò con piccoli traghetti. Oggi dispone di una flotta di 24 navi che collegano Genova, Civitavecchia e Livorno con Sardegna, Corsica e Isola d'Elba. Nel 2009 ha trasportato 5,8 milioni di passeggeri. Originariamente la compagnia era nota come Navarma, Navigazione Arcipelago Maddalenino, e solo successivamente ha cambiato denominazione. Prima era orientata più sul trasporto merci, in seguito arriva la svolta, a servizio dei passeggeri e l'espansione su un numero sempre maggiore di tratte, come spiega Vincenzo Onorato. Mio padre aveva fondato la Navarma, che era una compagnia che faceva la Piombino-Portoferraio, per cui di trasporto locale si parlava e c'era cultura in famiglia. Nella realtà la Moby è nata con questo progetto ambizioso di essere la prima alternativa alla Tirrenia in termini di qualità di servizio offerta per i passeggeri. Devo dire che allora ero un po' preso come un visionario, oggi certamente un po' meno. E io devo dire che ricordo sempre che la prima nave italiana che è entrata in Cina nella Seconda Guerra Mondiale era il Silvio Onorato, era una nave di papà, per cui diciamo che la scelta delle tratte o delle rotte da eseguire non è stato mai un problema in termini di ansia o di sfida. Io ricordo proprio che in questi giorni, dal 1° aprile, noi siamo la Moby, la prima compagnia totalmente italiana, è entrata sulla linea di cabotaggio francese Tolone-Bastia. La Moby è attualmente capitanata da Vincenzo Onorato, con Daniela Onorato alla direzione della compagnia, oltre che uno dei principali azionisti. La presidenza e l'amministrazione della compagnia venne loro lasciata dal padre Achille. Vincenzo Onorato ricorda così il suo ingresso in azienda. Non c'è un primo giorno, è lo stesso rapporto che ho avuto con... quando penso al mare penso a mio padre, quando penso a mio padre penso al mare, nel senso che è stato un binomio inscindibile sin dai miei primissimi ricordi. Era il personaggio, era il doppio di mio padre a casa, era il mare. Per cui il mare su tutti i punti di vista, il mare come navi, come armatore, il mare come barca a vela. E devo dire, con molto rammarico, che mio padre è stato l'ultimo fortunato in famiglia a fare l'armatore, seguendo le navi, quindi gestendo le navi, vedendole da vicino, inseguendo le navi per il mondo, quindi avendo un contatto profondo con il mare. Io, pur amando Milano, io devo dire che faccio l'armatore da Milano, per cui il contatto con le navi è un contatto di, come posso dire, di nostalgia. Quando salgo a bordo delle mie navi mi sento bene, ma c'è una parte profonda di nostalgia, perché vorrei avere avuto la fortuna che ha avuto mio padre di passarci molto più tempo di quello che ci passo io. Ma mi rifaccio con la barca a vela. La passione per la vela mette Vincenzo Onorato in contatto diretto con il mare. Da poco ha raccolto la sua esperienza dai transatlantici alle petroliere, agli yacht, alle barche a vela, in un romanzo composto da racconti, in libreria in questi giorni dal titolo «Quando saremo vento sulle onde del mare», pubblicato da Mondadori. Onorato è noto alle cronache, infatti, oltre che per la sua attività imprenditoriale, anche per la sua blasonata carriera velistica e per la partecipazione all'America's Cup con mascalzone latino. Il suo palmarès velico conta diversi successi, tra cui 6 vittorie ai campionati del mondo. Nel 2007, a seguito dei numerosi successi ottenuti, è stato nominato velista dell'anno. Di tutti i riconoscimenti ricevuti, Vincenzo Onorato racconta i momenti più significativi. L'esperienza più importante, guardi, sono due, più che le vittorie ai titoli mondiali, sono innanzitutto i mari che ho visto. Ho avuto la fortuna e il privilegio, io mi reputo estremamente fortunato di aver visto un po' tutti i mari del mondo. E poi di aver consolidato un gruppo di ragazzi, io la chiamo la setta dei tatuati, il mio equipaggio storico, con cui andiamo in barca, ma siamo ex ragazzi, con qualcuno di loro da più di 20 anni. Quindi è una confraternita, io non a caso le ripeto, la chiamo la setta dei tatuati. Il gioco di squadra è molto importante in barca. Così Vincenzo Onorato ricorda tutti i componenti dei team che ha conosciuto, persone dedite anima e corpo al mare. La passione per il mare porta Vincenzo Onorato a fondare la Scuola Vela di Mascalzone Latino. È stata concepita per offrire nuove motivazioni e obiettivi di vita migliore ai ragazzi di Napoli meno abbienti o che vivono in situazioni di disagio sociale. La Scuola Vela di Mascalzone Latino è operativa sin dal 2007, anno in cui sono stati organizzati 6 corsi con 65 allievi. A seguire l'attività è poi continuata attraverso 4 corsi con 52 allievi nel 2008 e 5 corsi con 76 allievi nel 2009. Il programma del 2010 ha avuto inizio nei primi giorni di aprile. La Scuola Vela di Mascalzone Latino è patrocinata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla RAI e dal Ministero della Gioventù. Ecco com'è nata questa avventura. Io non parlo di persone disagiate, io parlo di opportunità. L'idea mi è venuta fuori perché, per una considerazione banale, perché Napoli non produce campioni di vela? I campioni di vela hanno la mia età, quindi una 50ina d'anni, siamo da rottamazione. Se lei va a Trieste ha, ogni anno tira fuori dei campioncini, Napoli no. Eppure la materia umana a Napoli c'è. Il problema è che la vela a Napoli è legata ai circoli velici. I circoli velici ci vanno i figli di papà, non hanno motivazione, per cui non vanno da nessuna parte. Se lei prende i bambini dei quartieri un po', tra virgolette, difficili di Napoli, che sono formidabili, simpaticissimi poi tra l'altro, pieni di grinta, pieni di voglia di fare, e li porta in mare, ma hanno un'energia esplosiva che li porterà dei risultati in più. Questa energia esplosiva che nelle strade la canalizzano per fronteggiarsi l'uno con l'altro, incominciano a canalizzarla in un senso di relazione, di collettività che dipende dall'essere in equipaggio, che li può portare a crescere, avere anche una relazione sociale con gli altri diversa da quelle che hanno oggi. Bilanciamento tra vita e lavoro. Con un programma lavorativo così intenso e con passioni così forti, com'è possibile raggiungere un equilibrio in questa navigazione anche in tempi difficili? La ricetta per viverla è, vede, la maggiore parte delle persone ha un'aspettativa per domani: domani sarà meglio, domani riusciremo a vivere meglio. La realtà è che bisogna vivere ogni, è una banalità, l'avrà letto da mille parti, ogni giorno come il giorno migliore della propria vita. Poi certamente ci sono dei periodi più semplici. Io con grande dolore sono 8 mesi che non faccio una regata, ma purtroppo il mondo ha affrontato una crisi economica devastante. Io spiego ai miei figli, che per spiegare ai miei figli questa crisi, dico: immaginate in questo caso l'Europa, un'economia anziana che cammina, qualcuno tende uno sgambetto, questa persona si rompe i femori, per rompergli ci vuole una frazione di secondo. Per rimettere in piedi una persona anziana, farla ricamminare, ci vogliono dei mesi e grandi difficoltà. La metafora è chiara e violenta, ma è così, il mondo si è fermato. Per cui tutti quanti noi, quelli che hanno poco o molto potere, devono impegnarsi per cercare di far ripartire, per far partire l'economia e quindi il lavoro, che è la dignità dell'uomo. Messaggi importanti che si devono ricordare nei momenti di tempesta, come quelli in cui la crisi morde e che insegnano qualcosa a tutti. La Moby nel 2009 è stata una delle pochissime compagnie di navigazione che non è che ha subito la crisi, ha performato meglio del 2008. Io direi che in questo eravamo preparati, c'era, sembra adesso dirlo col senno di poi, ma c'era un'esaltazione collettiva a cui poi non corrispondeva una sostanza, per cui prima o poi la crisi doveva arrivare ed è, continuo a sottolineare, sempre cercando di spiegare ai miei figli, la sostanza della crisi economica proviene assolutamente da una crisi, da una profonda crisi morale che ha investito l'economia e ne ha portato delle drammatiche conseguenze. C'è un senso etico, se non addirittura religioso, nell'accaduto che va letto e riscoperto con assoluta attenzione e profondità. Poi per quanto riguarda il personale, io devo dirle questo, io sono napoletano e noi napoletani nasciamo e cresciamo con un senso di assoluta precarietà. Poi sono marinaio e ogni marinaio ha un senso assoluto di precarietà perché non sai la mattina dopo il mare come si sveglia. Quindi se lei fa un blend fra la napoletanità e il marinaio ne esce veramente quello che mi ritengo di essere io, l'assoluta incertezza, che poi se ci pensa è per i meno attenti l'assoluta condizione umana. Nessuno di noi sa quello che arriva, anche in senso positivo. Passaggio generazionale, ingredienti di continuità e ingredienti della tradizione. Qual è la scelta che Vincenzo Onorato ha fatto per Moby per le future generazioni? Non l'obbligo di portare un privilegio se non lo si sente, cioè lasciare i figli liberi di fare quello che vogliono. L'obbligo dell'educazione al lavoro, quella sì, da lì non si può prescindere, cioè se ti piace fare il lavoro di papà, se senti la tradizione, la storia, le quattro generazioni, il peso di questa responsabilità, ben venga. Se non te lo senti, fai qualsiasi altra cosa. Io ho il mio secondo figlio che ama fare l'attore, lo spingo più io che la madre, ecco. Con lo slogan Un viaggio più avanti, la Moby è presente nel business dei trasporti marittimi da 120 anni, rispettando l'ambiente, ma anche la sicurezza e la qualità dei servizi. Per questo si è guadagnata il Safety Management del Registro Italiano Navale, sistema applicato dal 1994. Ecco cosa vuol dire la parola ambiente per Vincenzo Onorato. A volte sento parlare una serie di finanzieri come del mare, come l'oggetto attraverso il quale si fa il business. Ormai gli armatori sono tutti, la maggior parte sono tutti finanzieri. Io vivo sul mare, bisogna imparare a amarlo e rispettarlo. Ogni volta che poi tra l'altro l'ho sottovalutato, in barca a velo ho rischiato la vita. E mi è andata già bene 3 volte, per cui sto attento a non riprovarci più. Ci sono dei limiti in tutto. La Moby ha nel tempo accresciuto la capacità di rimanere impressa nell'immaginazione e nella memoria delle persone. Successivamente, oltre alla balena, è stato aggiunto sulle nuove navi il tema delle vacanze, con isole, surfisti e altri disegni vacanzieri. Infine, un accordo con la Warner Bros. Ha permesso alla Moby di proseguire le precedenti campagne pubblicitarie, disegnando sulle nuove navi alcuni personaggi dei Looney Tunes. Il futuro dei trasporti è una scommessa? E su quali carte si può scommettere? Non c'è immagine senza sostanza, il fumo senza arrosto non ha consistenza. Quello che noi siamo le navi per la famiglia, la veste grafica esterna con i Looney Tunes corrisponde a bordo a ampi spazi per i bambini, a dei menu studiati per i bambini, a una brandizzazione interna della nave, a un'attenzione per il cliente. Io le faccio un esempio banale: a inizio stagione abbiamo avuto una riunione dei quadri generali dell'azienda, adesso le si metterà a ridere, perché la qualità del caffè servito a bordo non mi soddisfaceva. Da buon napoletano ho detto: non possiamo servire questi caffè che sono una vera schifezza, per cui dobbiamo rivedere la sostanza del caffè. Per cui questo significa anche passione per il proprio lavoro alla fine della giornata. E poi largo alle donne e ai giovani. Noi abbiamo un'azienda, la Mobi, che ha dei manager cresciuti in house, quindi gente che è cresciuta dentro l'azienda. Devo dire che poi, tra l'altro, io lo sottolineo sempre, che i manager nei ruoli chiave sono tutte donne. Quindi io ho molto stima delle donne, perché sono più determinate degli uomini, più cattive degli uomini e molto meno corruttibili degli uomini. Per cui la Mobi ha questa forza e questo gruppo sta crescendo una nuova generazione di ragazzi dietro di loro, che devo dire che anche oggi stanno incominciando ad avere dei ruoli chiave. Abbiamo un manager dell'informatica che ha 28 anni. Buon vento, si dice tra i velisti, e Vincenzo Onorato svela qual è il tempo migliore per navigare. Quello che incontrerò domani, mi auguro sempre di continuare ad andare in mare, di starci di più, perché il mare è come la propria famiglia, non bisogna pensarla, bisogna trascorrere del tempo con la famiglia, con in questo caso con l'elemento principale che è il mare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima!